cuore e denari. I consigli della settimana. E noi strada facendo incontriamo Alberto Pellai. Come tutte le settimane dedichiamo questa parte del programma a riflettere sulle notizie della settimana che colpiscono e che invitiamo i nostri ascoltatori a discutere con i loro figli. Ciao Alberto. Buongiorno a tutti, ciao Nicoletta, ciao Deborah. Buongiorno Alberto. La notizia che vogliamo commentare con te questa settimana è quella che si riferisce alla crisi molto forte che sta investendo nel nostro paese la formazione scolastica di livello secondario e universitario in Italia. C'è un rapporto lanciato proprio in questi giorni dall'Ufficio Statistica della Commissione Europea che pesa come un vero e proprio macigno sul nostro paese. Tu hai consultato i dati emersi da questo rapporto, ce li vuoi raccontare Alberto e secondo te quali sono gli elementi che hanno colpito di più? Sì, colpisce molto che l'Italia sia davvero l'ultima nazione, il fanalino di coda all'interno dei 28 paesi della Comunità Europea, è ultima soprattutto per percentuale di ragazzi che arrivano alla laurea, ma è in una pessima posizione anche in relazione ai ragazzi che completano il ciclo secondario superiore, quindi molti meno ragazzi rispetto alle altre nazioni che in qualche modo fanno l'esame di maturità e quindi ottengono un diploma superiore e ancora meno che poi invece arrivano al titolo di laurea. Questo è decisamente un indicatore da una parte probabilmente di qualcosa che non funziona nel sistema scolastico, dall'altra parte probabilmente qualcosa che non funziona nel sistema delle relazioni familiari e della ricerca di autonomia dei nostri figli, per cui si bloccano molto frequentemente nella loro carriera. Tra l'altro, secondo le previsioni di Bruxelles, saremo il paese col sistema di istruzione più inefficiente del vecchio continente. È corretto? Ho letto bene? Sì, credo che questo sia proprio quella parte di commento che potremmo fare oggi dedicato al sistema scolastico e che in realtà ci interessa meno. Probabilmente ci interessa guardare oggi invece questi dati nella logica della relazione genitori-figli partendo dal dato di fatto che si può ipotizzare un abbandono scolastico nella carriera scolastica di un figlio nel momento in cui questo coincide con un progetto, cioè lascio la scuola perché mi gioco le carte associate ai miei talenti, alle mie competenze in un'altra area. Ma davvero invece l'abbandono scolastico per molti dei nostri figli è associato invece a un non progetto, cioè lascio la scuola e allo stesso tempo me ne ritorno in casa, sto in famiglia e questo genera un ciclo di totale mancanza di autonomia e di totale dipendenza, quindi in termini psicologici potremmo dire che questa diventa una sorta di mossa molto regressiva nel percorso di crescita. Quindi ci stai dicendo che questo abbandono è un aspetto che mette in crisi il sistema familiare per intero? Sì, e devo dire che probabilmente in Italia succede molto più che nelle altre nazioni, perché effettivamente il nostro sistema familiare è composto in modo tale da offrire a un figlio davvero tanta iperprotezione, quindi in qualche modo un figlio che non va avanti nella sua carriera scolastica rientra a casa con una certa tranquillità perché tanto ci sono sempre una mamma e un papà e una famiglia allargata lì vicino a lui che se ne sanno fare carico, se ne prendono carico. Allo stesso tempo probabilmente noi italiani, proprio perché siamo un po' più protettivi, probabilmente anche un po' più mammoni, abbiamo davvero tanta paura per il fallimento oppure per quando i nostri figli corrono un rischio, entriamo subito in ansia e cerchiamo magari di fermarli, cioè non correre quel rischio. Succede spesso a volte che i genitori ritirino i figli da un corso di studi per evitare la bocciatura e questo ritiro scolastico poi corrisponde a un non avanzamento negli studi e probabilmente invece per il figlio toccare con mano il risultato di un percorso che è anche proprio un po' fallimentare, cioè entrare in una dimensione temporanea di fallimento può essere una modalità con cui poi acquisisce la motivazione per togliersi da lì. Quindi anche quello potrebbe essere un passaggio evolutivo che non va prevenuto sempre e a tutti i costi. Andiamo all'aspetto denari, Alberto. Tu sai che tra l'altro la deriva estrema del fenomeno di cui ci stai parlando è quella dei NEET, tutti quei ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non sono impegnati nel suo percorso di educazione, occupazione o formazione. Una società agli ultimi posti delle classifiche della formazione scolastica non può avere un futuro roseo, no? Perché questo quadro rischia di far sì che la crisi attuale si trasformi in una crisi permanente. Ci sono delle considerazioni che possono servire ai genitori che stanno accompagnando i loro figli negli studi superiori o che magari devono poi sostenerli quando si iscriveranno all'università dopo l'esame di maturità, anche in un'ottica globale di questo problema? Sì, io credo proprio che quello che dici tu è davvero importante, cioè un genitore dovrebbe davvero imparare a capire quali sono le esperienze di autonomia, cioè che cosa significa dare una spinta a un figlio, lasciarlo andare, a volte anche proprio fargli correre qualche errore. L'altro aspetto è facilitare il più possibile la partecipazione ad esperienze che lo portano in altri contesti, a volte in altre famiglie, a volte in altre nazioni, la partecipazione ad esperienze di associazionismo. I nostri ragazzi dovrebbero davvero un po' mettersi in gioco gratuitamente in attività che sono motivate da una spinta ideologica per cui non c'è un compenso, ma rispetto alle quali poi si possono imparare davvero tante competenze sul campo. Prendo un esempio anche che mi colpisce tanto, cioè entrano alle scuole superiori, moltissimi di loro abbandonano l'attività sportiva nella quale si erano dedicati per tantissimo tempo, perché molte volte i genitori hanno l'ansia che poi non riusciranno a studiare bene. Invece la sfida davvero è non spingerli all'abbandono dell'attività sportiva, ma sostenerli il più possibile affinché riescano a integrare la fatica di tenere duro su tutti e due i fronti. Allora Alberto, io direi che abbiamo un minuto di chiusura, alla chiusura, e quindi è arrivato il tempo dei nostri consigli di lettura. Io consiglierei a tutti la lettura di La vita è un viaggio di Beppe Severgnini. È proprio un libro, una sorta di navigatore ricchissimo di stimoli, lavora con un percorso su alcune parole chiave che sono quelle che permettono l'entrare dentro a un progetto di cambiamento, intendendo la vita proprio come un viaggio che ti porterà poi a un traguardo, e soprattutto secondo me sottolineando un concetto, che c'è un tempo per andare e un tempo per restare. Probabilmente il tempo della formazione dobbiamo impararlo sempre di più, è un tempo in cui non si sta ma si va, bisogna diventare mobili. Allora Alberto, per oggi è tutto, grazie per i tuoi consigli, noi ci sentiamo la prossima domenica, mentre insieme a Deborah vi aspettiamo domani come sempre alle 11 per Cuore Denari. Grazie, buona giornata. Saluti.